quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Renzi si svegli. Renzi difende gli interessi dell'Italia, gli interessi dell'Europa. Finora non l'ha fatto. L'Italia dovrebbe contare, in realtà non conterà mai niente fin tanto che i nostri presidenti del Consiglio periodicamente si presenteranno alla Merkel baciandole la pantofola. Mi pare del tutto evidente, diciamo, che forse qualche tweet potevamo risparmiarcelo, diciamo. Ma può rimanere non con era il derby tra l'euro di minuti, e la dracma, Presidente? Diciamo, questo referendum aveva un altro significato. Nessuno propone il ritorno alla dracma. La falsificazione che Renzi, pulcino sotto le ali protettive della sua chioccia Angela Merkel, Renzi compie. Tutti a chiedersi ora che succederà, tutti contro la Merkel, avete sentito Brunetta, Vittorio Feltri, D'Alema, Vendola. Tutti contro la Merkel e tutti che non hanno una soluzione, nessuno ha una soluzione, nessuno sa che succederà. Oggi c'è il vertice nuovo europeo con Tsipras che va lì e pare che abbia una nuova carta, un nuovo piano, il piano Juncker sostanzialmente, ma con 1 miliardo di sconto, uno sconticino di 1 miliardo per la Grecia, perché sennò vanno gambe all'aria, se già non lo so. Ieri ci eravamo lasciati con la BCE lascerà, darà nuovi fondi, nuovi soldi alle banche. No, la BCE per ora non dà un euro e neanche una dracma falsa, ovvero che sia, alla Grecia. E la Merkel? L'avete vista la foto della Merkel? Porca miseria, la foto di prima mattina quando evidentemente doveva affrontare questa situazione tutta scapigliata, tutta spettinata, scomposta, distrutta, devastata. Sembravo io sveglio alle 5 minuti, una qualsiasi mattina. E vabbè, la Merkel, insomma, nuovi aiuti alla... Nein! Per ora è Nein! Non è un po', sarà un po' più dolce, dice Nein! Nein! Però per il momento niente. Che succederà della Grecia nessuno lo sa. Nessuno lo sa. Questa è 24 mattino, sono le 6:32 minuti, ripartiamo da qui perché insomma i giornali parlano soprattutto di Grecia. Cercheremo di capirlo, vabbè, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è il nostro alpino Peter Bescapè in regia, cercheremo di capirlo con un grandissimo ritorno, la voce dell'irriverenza, il nostro sguardo sul mondo senza infingimenti, il nostro grandissimo Albertone Forchielli. Buongiorno Alberto. Ciao Alino. Eccolo qua, come il presidente stai? Dell'Osservatorio Asia che si parla da Bangkok, da dove? Hong Kong. Lui si sposta così tra Bangkok, Hong Kong, Singapore, Macao, qualche volta, qualche puntata così. A Hong Kong. Che tempo fa? Qui c'è Flegetonte. Sai chi è Flegetonte? Ah, no. No, fa caldo anche qui, eh. Fa caldo. Di andare in piscina a buttarsi in acqua sembra di essere alle Terme di Porretta. L'acqua calda. Ah, bella, che bella immagine. Sì, no. Perché? Ma sì, no, ma neanche l'acqua da sodiente, da stare in casa. Lo so, perché Forchielli è uno che è molto amato, perché sui social network, su Facebook, ogni tanto fa le foto di lui col suo piedino e una piscina sullo sfondo, così giusto per... Ma tu non lo sai che c'è un odio sociale, poi la gente ti odia, la gente scrive le cose più brutte. Oh sì, sì. Sì, vabbè, ma cosa ti posso fare? Niente, vabbè. Allora dai, apriamo subito il Parlamento, perché mi sa che Forchielli ci deve dire alcune cose sulla Grecia, perché qualcosa l'ho seguito e ha twittato in questi giorni. Allora, Alberto Forchielli, questa Grecia, che succede? Posso fare una premessa? Sì, certo, come no. Perché cioè, ormai si è detto di tutto, poi ti dico anche cosa penso che succeda, ma io vivo tra Hong Kong e Boston, adesso addirittura c'è il volo diretto Hong Kong-Boston, per cui quasi mai neanche più passo per l'Europa. Mm. Allora, ci sono tre aree economiche del mondo, l'Asia, l'Europa e Nord America. L'Asia va. Non andrà alla 7, non andrà alla 6, però va. Va. L'America, America, Canada, sì, insomma, il più due se lo fanno. Mm-hmm. In Europa l'unica area che va è quella parte di Asia. Aspetta che qui c'è una con il... c'è quello che mi pulisce la camera con l'Uber. No, è entrato qui con l'Uber. No, in Europa l'unico pezzo d'Europa che è nel passo col mondo è la Germania e tutto quel pezzo di paesi scandinavi, paesi bassi lì, euro non è. Il nord insomma. Cosa hanno in comune? Lavoro flessibile, innovazione, conti in ordine, tanta scuola, mm-hmm, tanta ricerca scientifica. Eh. Ok? Tutti quelli, quando leggo, la solidarietà, l'Europa, oddio, la democrazia, questo e quell'altro, ma non serve niente per mangiare quella roba lì, capito? Serve scuola, del mondo che innovazione. Va, quelle sono chiacchiere che non fanno mangiare nessuno, capito? Mm. Ma sì, sono... alla fine, capito, si rimane senza niente, perché sono parole vuote. Sì. Per poter crescere e svilupparsi bisogna avere certe caratteristiche in un mondo globale. Oh, qui sì, ovviamente i cinesi non vogliono un casino in Europa, perché è un grande mercato loro, sì. Sulla Grecia hanno puntato come base per la Via della Seta e compagnia, ma l'opinione pubblica dei greci è un'impressione pazzesca. Cioè che pensano? Sono dei cialtroni assoluti, secondo la ragione per cui... I greci come popolo, no dai, i greci come governo. Sì, la roba... Capito? C'è una lobby dell'infrastruttura che dice sì, salviamolo, ma il governo cinese non può permettersi di buttare due lire, sennò la gente dice, beh scusate, noi che siamo più poveri dei greci, perché li date ai greci, non ai noi. In America la gente dice, beh ragazzi, sono 5 anni che andiamo avanti questa roba qui, sarebbe come se da noi ci fosse la crisi in Wyoming, per 5 anni col default del Wyoming facciamo le prime pagine del mondo. Insomma, è una situazione assolutamente ridicola nel mondo, ridicola. Questa storia. Vabbè, ma quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo farla affondare? Allora, secondo me rimango dell'idea non affonderà. Non affonderà. Perché poi alla fine troveranno un compromesso, perché le pressioni americane anche per ragioni geopolitiche sono fortissime, perché queste si aggiungono alle pressioni cinesi, perché la Russia in realtà non conta niente, quando Tsipras va da Putin, oltre a giocare a facagno, Putin gli regala il gas per gli accendini, ma niente di più, c'è neanche gli occhi per piangere. Per cui alla fine la Merkel non resisterà a queste pressioni. E ce la farà, anche se adesso fa la voce anche dura, perché... anche se adesso dice nine. No, ma sì, vabbè, ma lo deve fare, c'è un elettorato, si deve un po', però non credo che possa esibersi, quindi alla fine sono troppe le pressioni. Poi lei sa, tu sai che lei ha questa ambizione di fare segretario dell'ONU. Tu ce l'hai detta questa cosa, vuol fare il segretario dell'ONU e quindi non può affondare la Grecia, non può. Vabbè, insomma, quindi la Grecia tu la vedi. Chiedi a me invece sarei per dare una massiccia dose di aiuto umanitario, sennò questi finiscono come il ghetto di Varsavia. Poi dei debiti in parte ce le possiamo scordare, sì, però un'uscita controllata dall'euro, perché altrimenti questi ci stanno in schiena tutta la vita, insomma. Ci stanno in schiena tutta la vita. Sì, ma ti rendi conto che nel 2009 l'Italia non aveva esposizione verso la Grecia, nel 2014 abbiamo 42 miliardi. La Francia ne aveva 70 ed è scesa a 48, con tutti questi meccanismi, questi fondi pro quota. Noi siamo creditori per 42 miliardi che non vedremo più. Non ne usciamo più. La Grecia è un gattino attaccato ai maroni. Cos'è che è un gattino attaccato ai maroni? Un gattino attaccato ai maroni, non ne usciamo più, capito? Diamogli da mangiare, diamogli un po' di benzina, capito? Evitiamo la catastrofe umanitaria, condoniamogli gran parte del debito, perché sia morta lì, capito? Non possiamo andare avanti altri 20 anni, capito? Sì, ma certo, ma condoniamo il debito, però tu dici, però a questo punto un'uscita controllata dall'euro, vadano un po', adesso trovino la loro strada, no? Quindi gli condoniamo un po' tutto, gli diamo, facciamo un piano Marshall. Sai che oggi pare che Renzi vada a proporre proprio un piano Marshall, quindi aiuti umanitari, no? Sostegno, però dici poi lasciamoli un po' al loro destino. No, padroni, poi basta, fuori. Fuori. Basta. Ma fuori proprio fuori. No, non fuori dall'Unione Europea, fuori dall'euro. Dall'euro, sì, perché non possiamo stare, cioè, ormai sono 10 anni a parlare di Grecia, no, cioè, non può un paese, un'area economica andare avanti, non si possono gestire i paesi correndo 3 volte alla settimana a Lussemburgo o a Bruxelles, cioè, a parlare di cosa fare, capito? Vabbè, ma questo è molto chiaro. Intanto hai visto che una persona della democrazia perché non è stata democrazia è votare, un alibi, ma che è un alibi per non pagare debiti e non mantenere gli impegni. Senti, però c'è uno amico tuo che si è fatto da parte, si è sacrificato, il capro espiatorio Varoufakis sostituito da Euclide, come che cavolo si chiama questo, porca miseria, Tsakalotos, anche lui perfetti studi a Londra, Oxford, bilingue ma marxista leninista. Ti piace marxista leninista? Ah no, sta buono, guarda che questa cosa qui sono distrutto per l'uscita di Scalciofakis. Perché adesso non so più schifare le gag. Scarciofacchi. Ho provato tutta la notte a trovare una combinazione sul nuovo. Ma per cosa non ti piaceva di Scarciofakis, tu che lo chiami così? Ah, perché è un demagogo, cinico, disonesto, che usa l'intelligenza per sé e non per il suo popolo. Ah. Cioè, poi dopo, hai visto che l'ultimo giorno si presentava con uno zainetto? Sì. Ma era uno zainetto esplosivo. Sì, lui era pronto a farsi esplodere. No. Poi tutte quelle telefonate ricattatorie che continua a fare. Per me lui non viveva mica in Grecia, lui viveva in Ascromonte. Lui viveva lassù. Che vuol dire voleva fare l'attentato? Voleva fare il kamikaze? Negli ultimi tempi si presentava con uno zainetto, qua o dentro c'aveva un registratore a bobine, geloso, diva, anni 60 per registrare, perché non aveva una lira per prendere un'elettronica nuova, sì, o aveva dell'esplosivo per farsi saltare. Cioè andava, abbracciava la Merkel, esatto. si faceva esplodere. No, adesso non so più come fare. Non sai più se... Siamo usciti Scarciofakis, è un danno anche per... È un danno per te, sì, effettivamente su Scarciofakis ti esercitavi moltissimo, invece niente. Vabbè, ma e l'Italia in tutto questo come la vedi? Renzi lo vedi propositivo, lo vedi, cioè, uno che... Oppure fanno tutto Merkel e Hollande? Beh, guarda, Renzi sta affondando più rapidamente di quanto immaginassi, ovviamente. Ha avuto una chance per salire quest'ultimo mese... Ed è stato quella volta che ha preso la funivia del Monte Bianco per andare a inaugurare. l'unica volta che è salito, per il resto sta facendo una figura. Ovviamente lo tengono fuori da tutti i giochi, perché scusa voi, quando Hollande e la Merkel parlano della Grecia, cioè, non lo chiamano. Quegli occhi degli italiani viene sempre fuori, e se no come fanno a parlare? Perché se parlano con gli italiani, cosa succede? Ho capito, perché il problema è l'inflazione della Grecia, poi dopo passa all'Italia, ossia è parte in causa, lui non può essere, lui è dall'altra parte, non può essere coinvolto, no? Ecco. Ovviamente, capito? Perché se io sono la Merkel dico a Hollande, adesso condono alla Grecia, poi dopo tra una settimana gli idioti italiani vogliono anche loro 500 milioni miliardi condonati, che così si dicono, come facciamo poi, perché con la Grecia ce la facciamo, con gli italiani no. Cioè ci dicono così secondo te, basta che non chiamiamo quegli idioti degli italiani, l'importante è questo. Senti, invece ti faccio sentire questo, un tuo amico, Romano Prodi, uno che l'Europa l'ha fatta e che dice ora, cos'è che dice Prodi, per lui l'Europa è un pane cotto a metà, senti un po'. Non possiamo, quando io ripeto continuamente, l'Europa è questo più bel disegno politico di pace, di prosperità mai avuto, però è un pane cotto a metà. Un pane cotto a metà, una roba che non è venuta, è venuta male. Il pane cotto a metà fa schifo, però, Alberto, il pane cotto a metà è una roba immangiabile. Cioè, ma io questa storia qui la so come le cartilene per andare nella nina nanna, ti posso anche andare avanti su quello che dice Prodone, che andò da Kohl e gli disse: Helmut, lo sai che l'euro è a metà perché non abbiamo gli strumenti di controllo, non abbiamo, e Kohl gli disse: Romano, oltre questo non posso andare, sacrificare il marco è stata una grande cosa per i tedeschi, oltre non posso andare, noi siamo l'ultima generazione che ha visto la guerra, se non chiudiamo adesso l'Europa con l'euro nessuno dei nostri successori lo farà mai. Questo è il segno di quello che Prodone sta dicendo. Vabbè, un panino, capito? Questa è la storia. Lui sapeva benissimo che era fatto a metà l'euro. Sì. Però sì, c'era un'altra cosa. Quando entrammo nell'euro c'era una premessa di fondo, perché allora me lo ricordo benissimo, ero vicinissimo a Andrea, anche a Prodone. L'euro ci costringerà a fare le riforme. Passa con le svalutazioni competitive. Purtroppo siamo stati così bravi da svenarci tutti i risparmi fatti sugli interessi, sui più bassi interessi con l'euro. Sì. Il debito è aumentato e non abbiamo fatto nessuna riforma. Questa è stata la grande scommessa persa. Cioè, abbiamo sovrastimato l'Italia per un fattore di 10 e gli italiani per un fattore di 10. Per cui, e questo è il problema che ci ritroviamo. Però Alberto, facciamo così, devo dare le informazioni sul traffico, poi rientriamo, ti faccio sentire Vendola, ti faccio sentire Grillo, ti chiedo di Berlusconi, insomma, sempre sullo sfondo della Grecia. Che succederà alla Grecia? Siamo con Alberto Forchielli, tra poco. Fidio Milan, manda il traffico in Italia, in Europa e nel mondo, debusciato. 24 mattino. Allora, siamo qui, 6:48 minuti, dai, c'è Alberto Forchielli che ci sta dicendo qualcosa sulla Grecia, com'è che è un gattino attaccato ai maroni? Un gattino attaccato ai maroni, non se ne può più. Ma poveri greci, ma pensa se ti sente un greco in questo momento. Ma a me che cazzo, che paghino i debiti, che facciano quel che devo fare, continuano ad andare in pensione a 30 anni. A 30 adesso? Cioè, non c'è un'economia, vanno in pensione a 30 anni. Cioè, cosa ci posso fare io? Non pago le tasse. Cioè, io cosa posso fare? Insomma, so chi è che... già abbiamo i problemi nostri. No, sai perché? No, ma io la penso come te. Sai che mi scrivono ogni tanto, c'è uno che mi scrive: i bambini greci che muoiono di fame ti malediranno. No. Ma chi ce l'ha con i bambini greci? Dovranno maledire i loro governanti che non hanno pagato le tasse, no, che hanno truccato i conti. No, per carità, gli diamo da mangiare per i prossimi 50 anni via gli aiuti umanitari. Ci metto anche del mio, quello che non succeda mai, capito? Sì, sì. Però basta, capito? Senti qui Vendola. A tutti con Tsipras, vabbè, Vendola è sempre stato con Tsipras. Vendola. Il Davide ellenico ha sconfitto il Golia teutonico. È un messaggio molto importante perché significa che l'Europa o si sfascia a destra con la vittoria delle Le Pen, di Matteo Salvini, oppure si rifonda a sinistra. Vedi, Alberto, lui c'ha sempre questa immagine, il Davide ellenico ha sconfitto il Golia teutonico, eh? Vabbè, che devi fare? Ma io dopo l'esito del referendum greco l'imperativo è non dragmatizzare. Non dragmatizzare, sì. No. Va bene. Senti qui. Anche perché è probabile che Tsipras non otterrà il Nobel per l'ecologia, Perché? Perché l'uscito dell'euro dalla Grecia farà stampare così tante dracme che ci toccherà di sboscare l'Amazzonia. Non è che se la cava con 5-6 pioppi. No. Bisogna. Vabbè, insomma, ma perché finirà così, secondo te? Fuori dall'euro e dentro la dracma, di sboscare l'Amazzonia? No, io spero. Ah, tu speri, fuori dall'euro, dentro l'Unione Europea. Dracma, aiuto umanitario a manetta, grande taglio del debito, però basta. E anche degli alberi dell'Amazzonia, perché bisogna stampare le dracme. Purtroppo sì, un pezzo, cioè, rimboschieremo da qualche altra parte. Grillo, senti Beppe Grillo. Perché c'è questo terrorismo? Guardate che una forma di contro la democrazia è la vostra informazione, è l'informazione che hanno fatto ci qua spieghi. Per il terrore che hanno indotto le persone. Qua non ci sono cadute. Il popolo ha votato, no? Hai capito? Grillo dice hanno tentato di terrorizzarle, invece niente. Bene. Tu invece contesti questa idea di democrazia. Per te non è democrazia, sono. Sì, no, che facciano i democratici, ma i debiti sono debiti, capito? Questo sono d'accordo. Gli impegni sono impegni, la parola è parola, non è che, capito? Io adesso allora cosa si fa? Non si prestano più nei paesi democratici, perché io presto a un paese democratico, poi dicono che per democrazia il debito non vale più ed è finita, capito? È la strumentazione. Cioè, questo uso della parola democrazia è un alibi per non pagare debiti e non mantenere gli impegni. E questa strumentalizzazione della parola democrazia non mi va. Non ti va. La parola è la parola, l'impegno è l'impegno. Senti, allora Salvini. E paesi come l'Irlanda, com'è? Salvini. Dice paesi come l'Irlanda e il Portogallo alla fine sono rientrati. Insomma, sì, sono rientrati. Alla fine si sono fatti un culo tanto. Anche l'Islanda, che non è parte della comunità, è rientrata. La Spagna ce la sta facendo. Noi abbiamo fatto la riforma della pensione, già l'abbiamo fatta, anche noi abbiamo fatto, allora se capirla tutti quanti. Insomma, gli unici sono, come l'hai chiamato tu, i cialtroni. Vabbè. E poi ci ritroviamo con 42 miliardi di debiti, di crediti, senza considerare la quota parte del T2. Vabbè, senti il buon Salvini su Tsipras. Tsipras vorrebbe la botte piena alla moglie ubriaca. Tsipras dice: io non ti pago il debito, però rimango in Europa e mi tengo l'euro. Bravo fenomeno. Vabbè, Salvini la vede così. Ci sono dichiarazioni di tutti, mentre c'è un Silvio Berlusconi un po' silente. Hai sentito, tu che no, sei amico di Berlusconi? Ho letto i giornali, quella storia lì dell'oggettina, veramente la vita poi ti riserva delle sorprese. Cioè, sembrava che un gran culo glielo facessero sinistra e magistratura, invece il culo peggiore glielo faceva i Risberardi, una roba da pazzi. No, ma a leggere i giornali, una roba, che la vita come ti cambia, eh? Vabbè, che dobbiamo, Alberto, però qui scendiamo in dettagli, insomma, che sono usciti sui giornali che non vorremmo commentare, ecco. Era tutta Facebook, quindi io mi riferisco a quello che leggo. Sì, quindi la vita ti riserva delle sorprese. Ma sì, ma guarda, capito? Altro che magistratura rossa. Anche la Boccasini si è da tanto da fare, ma bastava lasciare fare i Risberardi, era già posto. Vabbè, che dobbiamo fare? Chiudiamola qui su Berlusconi. Perché, vabbè, oggi dimmi un po': si incontreranno Merkel, Hollande, Renzi, Tsipras, si guarderanno tutti negli occhi. Ma cosa ci dobbiamo aspettare adesso? Tutti i giorni che 25 pagine di racconti, cioè, quanto va avanti sta storia? Cioè, cosa succederà nei prossimi giorni? Dai, dici qualcosa di no? No, intanto parte una spalangata di aiuti umanitari, perché quello che non vogliono, la Merkel non vuole un'altra foto tipo il pensionato che piange, non vogliamo foto di quel genere lì, quindi cercheremo di nutrirli.

che ne so, a Roma, a Bari, a Padova, cito tre atenei a caso in Italia, non so neanche se esistono in quelle città corse di scienze politiche, ma credo proprio di sì. Allora, questo è in estrema sintesi il senso di un emendamento che era stato presentato al disegno di legge sulla riforma della pubblica amministrazione, un emendamento in cui in pratica si propone di far contare nei concorsi pubblici non solo il voto di laurea, ma anche l'università in cui si è laureati. Una proposta che, se passasse, sancirebbe in modo chiaro che in Italia ci sono atenei che sono meglio degli altri, che ci sono università di serie A e università di serie B. Per la verità, di recente il presidente del Consiglio Renzi lo aveva anche detto in maniera netta, lo vogliamo risentire, qualche mese fa. Non è che si tratta di dividere le università di serie A e di serie B perché lo fa il governo. Ci sono già università di serie A e di serie B nei fatti in Italia. Pensare che tutte le università possano essere brave allo stesso modo è quanto di più non antimeritocratico, ma antidemocratico possa esistere. Così diceva qualche tempo fa Renzi. Insomma, l'idea è quella di far pesare anche la laurea in base all'università in cui si è conseguito il titolo. Ovviamente, quando questo emendamento è stato presentato, si è subito aperto una serie di dichiarazioni, si è subito scatenato un putiferio di critiche anche del mondo universitario. L'emendamento è dell'onorevole Marco Meloni del Partito Democratico. Buongiorno onorevole Meloni. Buongiorno. So che questo emendamento probabilmente anche alla luce delle critiche forse verrà, o non so, mi può dire, ritirato, comunque superato, però a me interessa discutere del senso di quello che lei voleva porre all'attenzione degli italiani, no? Intanto verrà ritirato effettivamente questo emendamento? Una piccola precisazione, purtroppo il tema non è semplicissimo, cerchiamo di semplificarlo. Io avevo presentato un emendamento che diceva una cosa un pochino diversa, poi il relatore di maggioranza insieme al governo hanno fatto questa, nel senso che la mia tesi era ed è semplice, poiché il modo di attribuire il voto di laurea da ateneo a ateneo, da corso a corso laurea è diverso e ci sono luoghi in cui magari è più semplice prendere voti alti, eliminiamo la possibilità che nel concorso pubblico o al concorso pubblico si possa accedere solo con una soglia minima di voto di laurea, sì. Cioè può partecipare a un concorso ad esempio da 105 in su. Onorevole Meloni, scusi, la devo fermare un attimo però, onorevole, perché il suo cellulare perdiamo una parola su due e io sono, non so, è una battaglia che mi fa disperare, quella delle comunicazioni in Italia, nel senso che fare la radio e non sentire bene la voce è una delle cose forse più difficili. Preferirei tentare di scalare l'Everest piuttosto di fare un collegamento radiofonico nel quale la voce si sente poco bene. Vediamo di ripristinare magari il collegamento. Intanto voglio salutare anche il rettore dell'Università di Messina, Pietro Navarra. Professor Navarra, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno. Le chiedo questo: le classifiche contestate anche qui dell'ANVUR, cioè l'Agenzia per la Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca, ponevano l'Università di Messina in coda, addirittura all'ultimo posto, credo, no? Una delle recenti. Lei non ci sta però a dire per questo dobbiamo essere considerati un'università di serie B, immagino. Innanzitutto dobbiamo distinguere tra la ricerca e la didattica. Vorrei capire se stiamo parlando di ricerca o di didattica, di formazione o di attività scientifica. Se parliamo di attività scientifica è una cosa, se parliamo di formazione e qualità dei laureati è un'altra. Io che credo che non bisogna confondere le due cose. Se parliamo di formazione, l'Università di Messina detiene delle posizioni del tutto riguardevoli, sia sulla base delle classifiche nazionali. Faccio riferimento alla classifica del Sole 24 Ore del 2014, l'ultima pubblicata proprio dalle colonne del Sole 24 Ore sulla qualità degli atenei, e l'Università di Messina è la seconda tra gli atenei meridionali di grandi dimensioni. Sì. E tra le prime 15 la undicesima per ciò che concerne la sostenibilità dei corsi di laurea ed è la 14ª per competitività della ricerca. Quindi queste sono classifiche di diverso tipo che pongono l'Ateneo di Messina non agli ultimi posti come certifica l'ANVO. Secondo posto tra gli Atenei meridionali di grande dimensione, per quanto riguarda la didattica tra le prime 15. Per cui da questo punto di vista non credo che l'università avrebbe alcun problema nel misurarsi e confrontarsi con gli altri Atenei d'Italia. Se esistono università di serie A e di serie B, questo è il concetto. Onorevole Meloni, eccoci, abbiamo ripristinato. Sì, ora va meglio? Ora la sento molto meglio. La questione, lei ci diceva, lei era nato con il suo emendamento con un altro intento, ce lo stava spiegando. Esatto, stavo provando a spiegare che io dicevo, siccome il voto di laurea viene attribuito anche legittimamente, secondo criteri diversi, almeno la facoltà, l'opportunità di partecipare a un concorso non condizioniamo al voto di laurea, anche perché noi nella riforma della pubblica amministrazione stiamo introducendo nuove regole per i concorsi pubblici che renderanno possibile gestire in maniera moderna ed efficiente concorsi anche con molte migliaia di partecipanti senza che si ammassino tutti alla prova concorsuale e senza che la prova concorsuale diventi una cosa gestita con troppa complessità. Questo significa valutiamo la preparazione dei candidati al concorso, nel corso delle diverse prove concorsuali. Un altro tema è quello che ponete voi, perché ovviamente sono vere entrambe le cose, cioè il titolo di studio deve essere riconosciuto come valido ed equivalente quando viene rilasciato in qualunque università, però è anche innegabile. Per esempio in tutto il settore privato nessuno obbliga un privato a valutare allo stesso modo un titolo di studio assegnato da un ateneo. Perfetto, infatti nel privato già avviene questa selezione naturale. Comunque, no? Probabilmente, siccome lei mi ha chiesto, verrà ritirato l'emendamento, sì. Verrà certamente rivisto e l'impegno è quello di valutarlo insieme ai componenti della commissione istruzione. È un tema che riguarda l'università, non solo la pubblica amministrazione. Cercheremo di comprendere come evitare ora di cambiare le regole sull'università, ma evitare anche un'ingiustizia, cioè che in pratica, perché sa accade anche questo, chi ha la fortuna di potersi iscrivere a un corso universitario magari a pagamento, oppure chi sceglie un'università in cui appunto legittimamente vengono dati voti un po' più alti, in pratica possa avere il diritto a partecipare a un concorso, magari uno molto bravo che si laurea in fretta e magari prende un voto un po' più basso non possa neanche concorrere. Ma guarda, su questo onorevole Meloni, io sono d'accordo sul fatto, quando lei dice perché riguarda secondo me soprattutto il settore pubblico, perché come ha detto lei il settore privato fa una selezione, cioè se io ho un'azienda privata decido di prendere, facendo una selezione, la persona che si laurea in un ateneo piuttosto che un altro, perché sono un'azienda privata e posso fare le mie scelte, no? Certo. A livello pubblico una laurea conseguita in qualsiasi università ha lo stesso valore. Esatto, io dico questa cosa che dice lei, che stanno tutti e che ovviamente è anch'essa legittima, perché il privato può scegliere come meglio crede, è giusto che si sappia, nel senso che è giusto che i ragazzi, noi abbiamo una grande difficoltà in Italia nell'orientamento, cioè nel consentire alle persone di avere tutte le informazioni possibili prima che si iscrivano a un corso di laurea, perché scelgano bene secondo le loro vocazioni, i loro interessi. Allora è giusto che questa cosa sia resa un po' più chiara, un po' più nota. Non si fa un torto alle università, si fa un torto, si fa un regalo, si fa una cosa giusta nei confronti di chi deve essere informato, a dire non tutte le università funzionano bene allo stesso modo e danno la stessa formazione. Ovviamente ci sono due problemi, chi ha protestato anche in questi giorni, in queste settimane, credo che abbia ragione. Il primo, occorre riequilibrare le risorse, noi siamo il paese europeo che spende meno nell'università, che quindi investe meno risorse pubbliche e ancor meno private, e quindi abbiamo un sistema universitario che fa enorme fatica e le abbiamo tagliate moltissimo, le tagliate in particolare il governo dal 2008 al 2011, prima e durante la crisi finanziaria che ha investito il nostro paese, e quindi occorre un po' riequilibrare le risorse, perché c'è una disparità di condizioni delle università, specialmente tra nord e sud. In secondo luogo, siccome vorrei dire al maggior numero possibile di ragazzi che si iscrivono all'università andate dove è meglio per voi e non dove potete in base alla vostra residenza o alle vostre condizioni finanziarie della vostra famiglia, occorrerebbe avere un diritto allo studio degno di questo nome, per cui sia realmente possibile fare questa scelta, e noi dobbiamo dirlo, non abbiamo un diritto allo studio degno di questo nome, spendiamo un quinto o un sesto dei paesi europei con i quali però, vorremmo competere, dire. E allora bisogna affrontare le cose nel loro complesso, questo certamente. Questo è vero. Onorevole, vorrei capire dal rettore Navarra, ripeto, il rettore a Messina, che rettore intanto ci ha spiegato legittimamente perché contesta il fatto di essere stato messo al fondo di questa classifica, però ci spieghi invece che cosa non le piace dell'idea di catalogare o dividere o trovare un metodo per stabilire se un'università appartiene a una fascia più alta o fascia più bassa. È un qualcosa che lei contesta, rettore? Innanzitutto non siamo stati messi in fondo a nessuna classifica, nel senso, ritorno a dire, qui stiamo parlando di formazione e non di ricerca. Sì. La base delle attività della formazione, le misure che riguardano la formazione mettono l'Università di Messina al secondo posto degli atenei di grandi dimensioni posizionata al sud. E va bene, questa cosa l'abbiamo smarcata. Veniamo alla questione invece di cui parliamo. Cioè, secondo lei esistono università di serie A o di serie B? È certamente vero, un'azienda privata nella selezione che fa dei suoi impiegati sceglie chi reputa migliore, ma sulla base di valutazioni che fa l'azienda privata. Per quanto riguarda il settore pubblico, i concorsi pubblici, qui c'è una confusione che va in qualche modo fugata. Innanzitutto io non conosco alcun concorso pubblico dove viene valutato il voto di laurea. La cosa che l'elemento fondamentale è il titolo di laurea, non il voto di laurea. E siccome le università sono tutte accreditate dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e rispondono a dei requisiti per essere accreditati, i corsi di laurea che vengono erogati nelle università italiane superano una barriera e dei requisiti che permettono quindi il riconoscimento paritario a tutti i corsi. Quindi per lei, superati questi requisiti, una laurea presa ovunque vale allo stesso modo in Italia? Assolutamente sì. La domanda che mi pongo è il differenziale tra... Perché, mi scusi, allora, perché l'azienda privata? Lei dice, è vero che l'azienda privata... l'azienda privata fa una selezione e dice, non voglio fare nomi, quello si è laureato lì, diciamo, invece che là, e quindi prendo quello laureato lì. L'azienda privata non fa questo tipo di considerazione, guarda la persona, no. Valuta se la persona ha le qualità e non guarda dove ha conseguito il titolo di laurea, valuta le qualità della persona. Io non credo che ci sia alcuna azienda in questo paese che antepone il titolo di laurea alla qualità della persona. Se io fossi un imprenditore giudicherei la persona, non dove ha conseguito il titolo. La persona, ma anche dove ha conseguito, scusi. Adesso io se uno è laureato, non so, facciamo ad Harvard, ecco, così andiamo all'estero, poi lo valuto, però insomma penso che sia una buona laurea, no? Il sistema universitario statunitense è molto diverso dal sistema universitario italiano ed è organizzato con criteri molto diversi dal nostro. Se noi confrontiamo arance e fagioli facciamo una grande va bene. Allora rimaniamo sull'Italia. Non piace un sistema che possa arrivare a dire quella università è meglio di quell'altra e quindi quelli laureati lì sono meglio degli altri. Io sono una persona molto chiara, se vogliamo togliere il titolo, il valore legale dello studio, facciamolo, ma non troviamo esperienze o soluzioni che lasciano molto più spazio al contenzioso giuridico che al buon senso. Perfetto. Onorevole Meloni, forse la soluzione che è suggerita anche da molti ascoltatori era questa: abolite il valore legale del titolo di studio e via. Tutto il discorso è finito. Solo una cosa, io mentre parlava il professore, il rettore, ho fatto su internet, ho provato a ricercare. Sì. Il primo bando che è uscito è un bando della Presidenza del Consiglio e di una serie di ministeri per esperti in politiche di coesione, è destinato ai cittadini in possesso di laurea eccetera eccetera, conseguita con voto minimo di 105-110. Vuol dire che è possibile, non essendo vietato, molte amministrazioni invece impongono questo requisito per la partecipazione. Prima questione. Secondo, siccome esistono dei filtri all'accesso alle università, delle università che sono più quotate, è chiaro che un'azienda valuta anche da dove proviene un titolo di studio, diciamo, non è che valuta là poi dopo, quindi in questo senso questo bisogna riconoscerlo anche tra le università italiane. In terzo luogo, il valore legale del titolo di studio è un tema anche questo che non si può affrontare in maniera ideologica senza entrare nel merito. Per certe cose non si può abolire, non si deve abolire, cioè un medico deve essere laureato in medicina, un giudice o magistrato deve essere laureato in giurisprudenza. Noi intendiamo, io intenderei, io proporrei di eliminare una serie di vincoli ulteriori. Per esempio, un'altra cosa che noi stiamo cercando di eliminare, un emendamento che non è passato, sembra per errore, nel senso che il governo ha dato un parere negativo e ho chiesto al governo di ripensarci, e per l'aula forse ci riusciremo. Ci sono barriere eccessive anche per la partecipazione a certi concorsi in relazione al corso di laurea nel quale si è laureati. Un diplomatico magari è bravo e supera bene le prove del suo difficilissimo concorso, anche se ha laureato in lettere o in filosofia e non solo in altre discipline. Quindi secondo me bisogna spostare un po' di più sul concorso la selezione e attenuare una serie di effetti eccessivamente vincolanti del valore del voto, del valore del titolo di studio, appunto perché il sistema universitario è, come in tutto il mondo, differenziato nel suo complesso. Allora, affrontando le questioni, perché se noi le affrontiamo, mi faccio concludere così almeno su questa domanda. Se noi diciamo valore legale del titolo di studio sì o no, discutiamo per mesi e mesi, secondo me, e non risolviamo nulla. Invece io vorrei risolvere i problemi che emergono con maggiore con maggiore chiarezza e con la maggiore capacità di risolverli pragmaticamente, e poi migliorare un po' le condizioni delle persone che, per esempio, devono affrontare i concorsi pubblici. Allora, bisogna capire anche come valutare nel caso dell'università, però facciamo così. Il rettore lì ha ragione, c'è la ricerca, c'è la didattica, e sono meccanismi che sono stati introdotti in Italia da pochi anni, che devono essere affinati e che però nei quali bisogna credere, perché occorre che le università, i docenti siano un po' più disponibili a un meccanismo di valutazione che renda chiaro a chi non ne sa nulla, perché se io sono un osservatore però interessato, perché magari mio figlio o io devo iscrivermi all'università, devo capire un po' meglio come funziona, perché non funziona allo stesso modo ovunque, questo è innegabile. Allora facciamo così, faremo una nuova puntata, tanto il tema, come dire, rimane, visto che l'emendamento, ci fa capire onorevole Meloni, verrà un po' modificato. Qualcuno un po' dice: ma com'è che appena ne fate una giusta vi frenate un attimo? Vabbè, ma questa è una considerazione magari politica che esula dal discorso in sé, che rimane molto, molto interessante e che riapprofondiremo. Io per il momento vi devo fermare e vi devo ringraziare l'onorevole Marco Meloni del PD e il professor Pietro Navarra, che è rettore dell'Università degli Studi di Messina. Andiamo in pubblicità a 3 minuti, poi torneremo su una questione che a me sta molto a cuore: la lotta all'abusivismo edilizio, perché ce n'è una nuova di sentenza che non so perché non è finita molto sui giornali. Riguarda la regione Campania, una sentenza della Corte Costituzionale. Ne discuteremo con il professor Berdini, spesso nostro ospite urbanista ai questi microfoni, e poi parleremo ancora di Grecia, avremo Elsa Fornero dopo le 9, insomma parleremo di tanti temi anche con le vostre chiamate. 800 24 0024, state con noi. Siamo qui, sono le 8:41. Allora, vorrei sentire Riccardo da Milano sul tema universitario. Riccardo, buongiorno. Sì, ciao, salve Milano, buongiorno. Eccoci, buongiorno. Buongiorno Milan e grazie per... Dica. Sì, da Milan. No, io dicevo, a me sembra che questo paese è sempre un paese che funziona al contrario. Cioè, invece di migliorare gli standard di selezione, perciò migliorare i selezionatori, invece di migliorare l'università, che è pubblica, lo Stato che cosa fa? Vuole mettere i criteri di selezione arbitrari, forse, non si sa nemmeno su quali valori. I criteri di valutazione dell'università, cioè cosa non le piace di questo discorso? Chi valuta chi? È un mondo in cui c'è qualcuno che può valutare. Da che mondo è il mondo? Da quando abbiamo 6 anni c'è un maestro che ci giudica, ci dà un voto, la vita è così. Di università dove sono scoppiati gli scandali di Parentopoli, voglio dire, qua si va a penalizzare poi chi esce dall'università. Aspetta un attimo. Guardi Riccardo, la questione è sempre quella, è come quando si dice innovare il mondo della scuola, rinnovare il mondo della scuola, si dice ma l'Italia è un paese di dove si potere ai presidi, ma poi dopo il preside aiuta l'amico, facciamo le Olimpiadi, ma dopo c'è la corruzione. Allora diciamolo, se siamo un paese fallito di gente corrotta, chiudiamo baracca e burattini e falliamo, basta, non facciamo niente, non si può fare un ponte perché c'è la mafia, non si può valutare le università perché sennò c'è Parentopoli, popoli e si aiutano tutti tra di loro. E allora non si può fare un cazzo in questo paese. Questa è la verità. Scusi il francesismo. Comunque, Riccardo, la ringrazio per il suo intervento. Allora, a proposito di argomenti che ci fanno un po' arrabbiare, uno dei nostri cavalli di battaglia è quello dell'abusivismo edilizio. Saluto il professor Berdini, Paolo Berdini, urbanista. Buongiorno. Come sta? Tutto bene? Bene, voi? Tutto bene, tutto bene. Però abbiamo letto una notizia che mi ha un po' inquietato. C'è una sentenza, mica una sentenza qualunque, una sentenza della Corte Costituzionale, depositata il 25 giugno. Io l'ho capita così. In questa sentenza si respinge un ricorso del governo. Il governo aveva fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro una legge della Regione Campania. Questa legge della Regione Campania non è che allunghi i termini del condono, ma di fatto stabilisce che entro il 31 dicembre di quest'anno, entro il 31 dicembre 2015, i comuni della Campania possono risolvere, regolarizzando tutte le domande di abusi relative agli abusi e relative ai condoni dell'85 e del 94, cioè gli abusi degli ultimi 30 anni, professor Berdini. Sì, esatto. Questo è stato un articolo che è stato impugnato da parte del governo. In realtà forse il governo non ha capito, e qua dice bene la Corte Costituzionale, nel senso che va chiusa questa vicenda della risposta dei condoni. Quindi sembra strano, torniamo un po' alla domanda dell'ascoltatore, che il governo non sappia che le regioni sono in ritardo nella risposta di condoni che datano ormai 30 anni. Com'è possibile che un paese non dà risposta positiva, negativa? Cioè, nel merito poi possiamo distinguerci, ma almeno dia una risposta. Sì. Quindi il governo impugna una norma, a mio giudizio ragionevole, anche se è molto, molto furba, come vedremo, che dice, insomma, diamo una risposta entro il 31 dicembre 2015. Perché è furba? Perché è chiaro che la Regione Campania non farà in tempo a rispondere, i comuni della Regione Campania non faranno in tempo a rispondere alle domande. E questo cosa vuol dire? Faremo un'altra leggina che dirà che i termini per rispondere vengono dati al 31 dicembre 2016, 2017 e così via. Ogni anno facciamo leggi. Ah, ecco, una leggina per prendere tempo. La questione, il mio timore, almeno come l'ho letto da alcuni siti, è che la Corte Costituzionale così in qualche modo dà il via a sanare 300.000 abusi edilizi. È così oppure esagerata questa lettura? No, direi che è esagerata, perché la norma della Regione Campania vale soltanto per i primi due condoni, e i primi due condoni sono quelli fuori, diciamo, dalla polemica sulle aree vincolate, cioè in pratica solo l'ultimo condono, quello del 2003, che non permette di condonare edifici che vivono su che sono stati costruiti su zona vincolata. Quindi non è che questa sentenza in pratica automaticamente dice sì agli abusi che sono stati realizzati, cioè dà una regolarizzazione, perché qualcuno l'ha vista come una sorta di condono mascherato che permette di essere passato così. Non siamo ancora al condono mascherato, ma certo la sentenza è grave dal punto di vista dell'immagine di un paese. Cioè, in pratica la Corte è costretta a dire che vigono ancora le norme di assoluto diniego del condono del 2003. Ma tutti sanno che la Regione Campania sono ormai 10 anni che naviga in queste acque torbide, cioè vuole sanare le case che stanno sul vincolo del 2003. Quindi è la commedia degli equivoci, questo anche è un tratto molto caratteristico italiano, cioè ciascuno non fa la sua parte, ma tutti mischiano i propri ruoli. Quindi sì, la Regione Campania vuole riaprire i termini del condono, lo fa con leggi via via sempre più stringenti, e sì, la Corte è costretta a ribadire: lì non potete condonare. Tra l'altro, professor Berdini, dopo il traffico ce lo spiegherà meglio, perché la questione della Regione Campania è annosa. Ogni tanto si sa ci sono dei tentativi di proporre delle leggi appunto per la riapertura dei termini del condono, perché la Regione Campania fu l'unica regione che non poteva usufruire di un condono, e quindi la Regione Campania, dicono, siamo stati svantaggiati. Ci provano in tutti i modi, ogni volta in Parlamento vengono respinti questi tentativi, ma forse ci provano ancora tra poco. C'è stato un problema col traffico, è caduta la linea, lo ripristineremo ovviamente alle prossime edizioni. Tanto ve lo dico io, c'è traffico in Italia, nelle grandi città. Allora, professor Berdini, la questione è, sa che De Luca, che è stato nostro ospite appena è stato nominato governatore, prima ancora del casino di fare tutta la legge Severino e mettere in piedi la giunta, ha detto ai nostri microfoni che con pragmatismo 80.000 case non si possono buttare giù, se questa è la cifra che ricordo bene di Abusi, e quindi con pragmatismo, a parte quelli che hanno costruito su vincoli assoluti eccetera, alcuni vanno, lo dica lei, sanati. Sempre lì che giocano. Dunque, forse De Luca non sa, perché è nuovo del mestiere, c'ha tanti problemi che si possono acquisire e ridare in locazione ai proprietari, diciamo ai costruttori abusivi, quelle case. Quindi potremmo trovare questa soluzione che tocca il portafoglio delle persone che hanno fatto l'abuso solo per guadagnare alle spalle della parte diciamo onesta di questo paese. Ecco, se cominciassimo a ripristinare questa regola molto cara allo Stato liberale di toccare le tasche degli imbroglioni, magari otterremo qualche risultato. Però la regione Campania, vorranno riaprire ancora i termini del condono che non ha, di cui non hanno usufruito le possibilità, perché ci fu una legge che poi fu appellata in Corte Costituzionale, fu una vicenda molto complessa, però di fatto la regione Campania di fatto è stata l'unica regione a non aver usufruito di un condono, quindi nella logica dei condoni sono stati fregati, e loro dicono: perché noi dovremmo essere fregati rispetto a tutte le altre regioni? In realtà si sono autofregati, quindi è tutta una colpa loro. Allora possiamo discutere sul fatto che la regione faccia un'altra norma, ma questo significherebbe riaprire il condono non solo per la Campania, per le fattispecie vincolate, ma per tutta l'Italia, perché c'è sempre la spinta condonista. Quindi speriamo che non lo facciano, però tutte le premesse ci sono, insomma un certo tipo di decisionismo sembrerebbe proprio alludere a questo, cioè facciamo un altro condono perché non se ne può più di avere una differenza tra la Campania ma sono stati loro a fare questo errore. Guardi, tra l'altro, professor Berdini, tanto su questo tema, come sa, torneremo a chiamarla e disturbarla, controlleremo anche questa legge che è stata, questo ricorso che è stato bocciato dalla Corte Costituzionale del governo e che potrebbe preludere a una nuova sanatoria, insomma, di 300.000 abusi edilizi alla regione Campania. Del professor Berdini ricordo sempre, se volete legge anche il libro Le città fallite, è abbastanza illuminante sul tema. Intanto ci sono ascoltatori sul tema universitario ancora che abbiamo lasciato dietro. Salvatore da Catania, buongiorno Salvatore. Buongiorno, certo che le scelte e le idee che hanno i nostri politici oggi non so se fanno ridere. Quali idee? Ma quali? Per esempio questa della classificazione delle università. Io ricordo, a questo punto si dovrebbe fare su tutte le scuole, su tutto l'ordine scolastico. Io ricordo mia figlia che fece le elementari al Sant'Orsolo a Catania, sì. Era considerata una scuola di una certa, non dico elite, ma certo di una certa rigidità e di una certa linea. Sì. E quando l'ho poi iscritta alle scuole medie, dove facevano per esempio alcune classi sperimentali con doppia lingua o quant'altro, è valso il fatto che veniva da una buona scuola elementare, e così pure al liceo, all'ospedalieri, al classico. Quindi lei vede che in famiglia una valutazione l'avete fatta. Sì, in effetti, ma allora bisognerebbe farla su un curriculum di un ragazzo, bisognerebbe farla non solo quando si esce dall'università X, che è una buona, un'ottima, la migliore università, ma bisognerebbe andare a guardare anche le elementari, le medie. Ma dicevo, scusi, è certo, ma sarebbe una cosa, voglio dire, non so se mi spiego, sta diventando una cosa assurda. Ma lei si è spiegato benissimo, però lei stesso dice, Salvatore, che in famiglia avrete scelto quell'elementare perché, come ha detto, a Catania era considerata un elementare d'eccellenza e poi si è confermato così. Quindi una valutazione c'è da parte di tutti, no? Si informano chi è il professore, fin dalle elementari, chi è il maestro che insegna lì, si chiedono informazioni. E quindi Che male c'è se si trova un criterio valido, non basato sulla corruzione, i parenti, gli amici degli amici, per farlo, per metterlo a sistema, per metterlo a regime? Io non ci trovo nulla di male. Certo, se mi si dice perché l'Italia è fatta da corrotti che tanto trovano scappatoia, e allora torno a quello che ho detto prima, allora non possiamo fare niente e buttiamoci nel cestino. Marco da Milano, buongiorno Marco. Buongiorno. Senta, io ormai da italiano medio non mi stupisco più quando vedo bloccare un iter legislativo, in questo caso un emendamento che ci avvicinerebbe al mondo civile come quello fatto da Meloni, però quello che invece mi stupisce è la protervia con cui chi rappresenta istituzioni che dovrebbero garantire trasparenza viene in radio a mistificare la realtà. Guardi, sul valore del voto di laurea, io potrei farle elenchi perché sono da molti anni nell'ambiente universitario, però le faccio un esempio che vorrei spedire al mittente, signore esimio, chiarissimo, magnifico lettore. Ogni anno migliaia di giovani laureati in medicina si cimentano con un concorso nazionale che è professionalizzante, cioè le scuole di specializzazione, che è l'ingresso nel mondo del lavoro. Il rettore non sa che il primo score viene dato col voto di laurea? Il rettore non sa che ci sono regolamenti nelle università italiane che consentono, le faccio un esempio per capirci, regolamento, si può arrivare da 98 a 110 e lode nell'università X, e non voglio sembrare, guardi, non voglio fare differenze nord e sud, mentre invece in altre università bisogna partire da 102. Allora Marco, si fermi qui, si fermi qui, è stato chiarissimo, insomma, in quelle che sono le sue critiche anche a quello che ci ha detto il rettore. Si fermi perché sennò non c'è spazio per la segreteria telefonica e invece ve la voglio far ascoltare. Chi paga il viaggio di quei parlamentari che vanno in Grecia a sostenere chi? Che possono fare? Solo per farsi una bella villeggiatura? A carico di chi? Non è una buffonata? Non credo che facendo un viaggio e andando là possano aiutarli. Quei soldini aiutassero gli italiani. A Milan, per fortuna che è tornata l'unità in edicola, avevo il canarino in crisi! Milan, ciao, voi figli della Troica, state tranquilli, state a Bitello in Grecia. Milan, ma faccia pairazzo, va dai! In tema di Grecia, Alessandro Milan è il mega Alexandros dell'informazione. Dear Alessandro, c'è un dolce piacere sentirsi superiore a qualcuno. Tu mi dai questa meravigliosa sensazione ogni volta apri bocca. Bye bye. Bye bye anche a te, caro ascoltatore. Perché sei ollio, stallio, non lo so. Dai, dopo le 9 parleremo di Grecia, avremo Udo Gumpel, giornalista tedesco, avremo anche Elsa Fornero, ex ministra al welfare, ai nostri microfoni. State con noi dopo le 9. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia, con l'etichetta multimediale ti fa i 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Sebastiano Barisoni. C'è qualcosa di straordinariamente perverso nella testardaggine con cui la Germania sembra voler continuare a ripetere gli errori che hanno portato l'Europa a questo punto. In estrema sintesi, la politica europea, tutta trainata dalla Germania, è riuscita in primo luogo nel trasformare in vittime dei poteri forti, delle banche e dei tecnoburocrati europei un paese come la Grecia che aveva tantissime responsabilità e colpe. Come se non bastasse, l'umiliazione invece che la punizione ha portato alla vittoria elettorale a gennaio di Tsipras, e le trattative condotte fino a due settimane fa hanno visto un'Europa così cocciuta nel fissarsi su aliquote IVA e altri dettagli marginali da portare Tsipras al referendum. Ultimo aspetto, le dichiarazioni, in primo luogo quelle del governo tedesco, a partire da Angela Merkel e dal suo ministro alle finanze Wolfgang Schäuble, hanno dato una grossa mano ai no, come il risultato dell'altro ieri ha dimostrato. Perché parliamo allora di una perversa testardaggine? Perché anche l'incontro di ieri tra Angela Merkel e François Hollande mostra lo stesso tipo di andazzo. Si fanno trattative due dimenticando che l'Europa è fatta da 18 membri, quella dell'euro perlomeno. A nulla quindi sembra essere servita la batosta che è arrivata sia a Bruxelles che a Berlino, e si fa finta che il caso greco sia ancora un caso di gestione ragionieristica di rientro da un debito che i greci non riusciranno mai a pagare. Per favore, qualcuno spieghi a Berlino e anche a Bruxelles che la politica estera è una cosa troppo importante per essere lasciata ai parametri di Maastricht. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora andremo in onda fino alle 9.30, come sapete sono le 9.09 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E dopo la vittoria del no al referendum greco cerchiamo di capire cosa potrà succedere ora. C'è questa trattativa che si riaprirà, non si riaprirà. Le domande sono tante, tutti ci chiediamo che succederà alla Grecia, ma anche che succederà all'Europa. Ripartirà questa trattativa alla Germania con Angela Merkel? La Germania è esemplificata come l'emblema del rigore europeo. Pare che dica nein per il momento. Parlerà però e ascolterà Tsipras. E se non riparte la trattativa, c'è da chiedersi che succede. Esce la Grecia dall'euro? Intanto saluto Udo Gumpel, collega, corrispondente dell'Italia per la rete televisiva tedesca NTV. Buongiorno Gumpel e benvenuto. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora, che farà oggi soprattutto la Germania? La nostra ottica è lì, è cercare di capire, visto che si parla del rigore di Schäuble, dell'austerity di Angela Merkel, la Germania è disposta a riaprire una trattativa con la Grecia? Allora, io vorrei, mi dispiace molto, tra colleghi uno non ci si corregge volentieri, ma sì, in realtà è un vertice tra 18 paesi, sì, e la, certo, Grecia, perciò è quello che in Italia ha fatto molto, diciamo, suscitato molte irritazioni, il fatto che il Merkel e Hollande si sono incontrati a una base che risale a 50 anni fa, che la Germania e la Francia hanno un contratto molto particolare che li lega in una maniera molto più solida, ovvero i governi sono obbligati da questi contratti di consultarsi quasi settimanalmente, addirittura ogni mese si fanno addirittura i gabinetti congiunti, cioè per far capire che la Francia e la Germania, il conflitto tra questi due era per secoli la ragione delle guerre in Europa, perciò nei contratti detti dell'Eliseo sono stati fatti, diciamo, perciò in Italia. Per cui non escludono, non escludono nessuno. Esatto, sono patti. È chiaro che l'asse portante dell'Europa è la unione indissolubile tra Francia e Germania, e questo sarebbe bene che anche a Roma, a livello governativo, si capisse. Detto questo, la Germania ovviamente tra i vari paesi è quello considerato il più ostico nell'aprire una trattativa con la Grecia. Ma non direi, anche questa, no? È una percezione un po' distorta, perché i paesi che erano più ostici, che ancora oggi sono contro qualsiasi concessione nuova e ulteriore alla Grecia, sono i paesi, 5-6 paesi dell'est, che sono anche nuovi paesi nell'euro, che si sono visti appena sono entrati un contributo di solidarietà per la Grecia, paesi che hanno dei pensionati che vivono con 250 euro al mese di pensione e dovevano fare il sacrificio per mantenere le pensioni greche, così come l'hanno visto loro. Cioè, adesso è una semplificazione, mi rendo conto, però la Germania ha detto, e questa è l'unica parola che esiste in questo momento, da parte del vice cancelliere Sigmar, sì, Gabriel, ha detto che le porte della Germania sono sempre aperte. Problema solo che la Grecia ha fatto, in mezzo alle trattative, perché non erano finite, questo referendum, e Tsipras, secondo la mia modesta opinione, ha ingannato i greci, perché ha detto: io ritorno al tavolo delle trattative con una posizione rafforzata. Sì. In realtà gli altri 18 paesi, l'Italia inclusa, hanno visto questo come una scorrettezza, non chiedere la popolazione in un referendum, ma semplicemente interrompere le trattative per farsi dare un mandato che significa azzerare la proposta precedente. Purtroppo, e questo è quello che i nostri ascoltatori forse interessa anche di più, si avvicina purtroppo molto molto, non il Grexit, perché questa è una procedura molto lunga, sì, e poi peraltro solo la Grecia può chiedere l'uscita dalla moneta comune, perché l'entrata e viene decisa di comune accordo chi esce, però è stata pensata per l'eternità questa moneta, è no? Chiaro. Perciò non è che adesso uno può cacciare qualcun altro. No, questo assolutamente no. Si può immaginare oggi, Gumpel, quali saranno le posizioni dei paesi dell'est più intransigenti? Possiamo mettere la Germania abbastanza dura e invece qualcun altro un po' più morbido? Oppure ci saranno 18 che guarderanno in faccia a Tsipras a dire: Tsipras, cosa ci proponi tu? Allora, la situazione attuale è proprio quest'ultima. Tutti i 18 paesi che dovrebbero mettere mano al portafoglio dei propri contribuenti cittadini, anche questo è un aspetto che in Italia non è molto chiaro a molti, che forse agli ascoltatori del Sole 24 Ore, ai lettori sì, perché è un giornale che informa bene delle questioni, però a molti altri non è chiaro che se si abbattesse per esempio il debito greco anche del 30%, significherebbe per l'Italia un circa 20 miliardi di euro di buco nel bilancio, che sarebbero 20 miliardi da rimetterci da parte dei contribuenti Chiaro. Italiani che hanno fatto tanti sacrifici. Perciò non credo che i paesi, i 18 creditori della Grecia accetteranno una cosa del genere. Io credo che adesso bisogna aspettare se Tsipras farà davvero delle proposte che vadano addirittura più in là di quello che era la vecchia situazione, altrimenti è un muro contro muro, diciamo. No, altrimenti non è, in realtà la Grecia è sullo scivolo, no? Mm-hmm. Sul piano inclinato. Se uno aspetta, c'è il Grexit, c'è la bancarotta vera e propria, avviene il 20 di luglio. Perché il 20 di luglio devono dare i soldi alla BCE, è chiaro. Esatto, la BCE non può non chiedere i soldi alla Grecia, perché sarebbero altrimenti un bailout vietato dallo statuto. Uh-huh. E là non c'è la politica che può decidere, perché lo statuto della BCE divieta assolutamente di tenersi per sempre titoli di ma Stato. È assolutamente così, no? Ma è assolutamente così. Cioè, il 20 luglio, ricordiamo, la Grecia deve dare 3,5 miliardi, credo, alla BCE, e quei soldi li deve ridare. Tra l'altro, la BCE che a ieri, con Mario Draghi e con tutti i governatori delle banche centrali che la compongono, ha deciso di non aumentare già i crediti di emergenza, quegli 89 miliardi già dati alla Grecia. È vero, ha deciso anche di non ritirarli e quindi di non chiedergli indietro, ma neanche di aumentarli di un euro. E quindi, come dice giustamente Udo Gumpel, la Grecia è sullo scivolo. O si fa qualcosa, e tutti oggi guarderanno negli occhi Tsipras a dire: va bene, adesso che sei stato rafforzato, cosa ci proponi? Oppure, se le cose vanno come devono andare, lo scivolo porta inevitabilmente a una caduta, anche se lenta. Io ringrazio Udo Gumpel e voglio salutare la professoressa Elsa Fornero, ex ministro al welfare. Buongiorno professoressa, grazie di essere con noi. Insegna economia a Torino. Buongiorno a lei e a tutti. Perché mi ha colpito che la scorsa settimana lei alla stampa, in un'intervista, ha detto: io se fossi ministro in Grecia non toccherei le pensioni. Proprio lei che invece, insomma, è legata alla riforma pensionistica in Italia, perché in Grecia non bisognerebbe farlo? Dunque, intanto il titolo era: se fossi in Grecia non taglierei le pensioni, sì. Il che è diverso da dire non toccherei le pensioni. E poi lei sa meglio di me che i titoli sono un modo abbastanza tagliente di indicare qualcosa che nella conversazione, nell'intervista, è un po' più ampia, cioè, chiaro. Allora, io ho detto che il senso era questo: la Grecia ha già fatto negli anni passati delle riforme. Una riforma delle pensioni ha bisogno di un minimo di tempo, anche la nostra, che è stata, diciamo, abbastanza subitanea, ha avuto effetti abbastanza immediati fin da subito. Allora, la Grecia ha fatto queste riforme. Il problema della Grecia è che ha molti modi per non osservare le regole più generali. Se lei prende, che so io, un rapporto OCSE sulle pensioni in Grecia piuttosto che in Germania, sì. L'ultimo rapporto è quello del 2014, e dice che le pensioni, l'età di pensionamento normale in Grecia, chiamiamola età di per la pensione di vecchiaia, è 65 e andrà a 67. Poi però ci sono mille eccezioni, e sono su queste, sono lì dove si nascondono i privilegi, le resistenze. tendenze a cancellare. Però sono situazioni del passato sulle quali come si potrebbe intervenire? Cioè andare a dire, è come sui baby pensionati italiani. Non è che portiamo l'età di pensionamento a 70 anni, poi si può fare per esempio l'adeguamento all'aspettativa di vita come noi abbiamo fatto, in modo da evitare che ogni volta ci sia questo pathos legato al cambiamento dell'età pensionabile, visto che l'aspettativa di vita aumenta e abbastanza rapidamente. Tra l'altro i greci hanno un'aspettativa di vita abbastanza elevata in Europa, tra le più elevate, e questo forse la dice lunga sulla nostra condizione di vita nel Mediterraneo, sulla dieta mediterranea, sulle condizioni di vita che sono, grazie al clima, alle cose che mangiamo, molto migliori di quelle che invece ci sono nei paesi dell'est europeo. Per esempio, vivere in Estonia o in Lettonia implica condizioni di vita e quindi anche un'aspettativa di vita più bassa. Ma insomma, il punto non è di aumentare ancora l'età di pensionamento oppure di tagliare le pensioni. Bisogna tagliare i privilegi. Tra l'altro, questo è un messaggio a proposito delle riforme che viene spesso sottovalutato. Le riforme per le persone sono sinonimo di sacrifici soprattutto chiesti alle persone meno agiate, alle persone in condizioni meno fortunate. Sì. Bene, invece si dovrebbe dire molto chiaramente, molto apertamente, che le riforme sono fatte per snidare quelli che vivono di privilegi, vivono di rendite, vivono di cose. Per esempio, a me ha molto colpito leggere di recente che la pensione media greca, più o meno, è uguale alla pensione media tedesca, con la differenza che un tedesco ha un salario nella media lavorativa, nell'età lavorativa, in genere non dico il doppio del greco, ma molto più alto. E poi, insomma, il PIL di Atene è metà di quello di Berlino. Com'è possibile sostenere un sistema in cui poi vanno in pensione più o meno con la stessa cifra in Germania o in Grecia? Non è la cifra assoluta, è la proporzione sostanzialmente sul reddito dei lavoratori. Siccome le vite lavorative in Grecia sono state tipicamente più corte di quelle tedesche, perché i tedeschi hanno per esempio recentemente allentato, forse grazie al fatto o per pagare un prezzo politico al fatto che la maggioranza durante questa legislatura è diversa da quella precedente, ha dentro anche i socialdemocratici, la Germania ha allentato la riforma delle pensioni, è tornata indietro. Io ho molti amici economisti che considerano questa una scelta sciagurata. La Germania se l'è potuta permettere, la cancelliera voleva aumentare la sua popolarità e ha fatto questo, ma la Germania è da tempo che va in pensione a età più elevata, che ha vite lavorative lunghe, che non ha tutti quei premi per esempio legati a circostanze speciali, quindi c'è il premio per il Natale, il premio per l'estate, la pensione. Sì. E tutte quelle cose lì in Germania non ci sono e andrebbero tolte, è lì che bisognerebbe incidere. Ma secondo lei Tsipras cosa dovrebbe fare oggi? Quindi dovrebbe presentarsi e dire guardi, le faccio sentire per esempio che cosa ci ha detto ieri l'economista Michele Boldrin, lui dice proprio sulla questione delle pensioni, anche lei dice che bisogna tagliare i privilegi, invece Boldrin è andato più diretto. Senta, questa cosa delle pensioni è l'elemento fondamentale, è uno scandalo, è una cosa folle che i pensionati di 50 anni, via le pensioni, ho capito che sono voti, ma insomma basta, è un impegno serio, si può fare pubblicamente e credo che questo sarebbe un enorme segnale, sia a fronte della liquidità. Cioè a fronte della liquidità, ci diceva il professor Boldrin, noi vi diamo liquidità alla Grecia, ma voi ci firmate subito che intervenite a tagliare per esempio le pensioni e i privilegi. Benissimo, guardi, questo ripeto, riguarda oggi le regole, ci sono, bisogna farle applicare, fra l'altro ancora con qualche differenza nel sistema pubblico, perché il sistema pubblico che è stato gonfiato esattamente per avere posti di lavoro e quindi troppe persone lavorano nell'ambito di strutture pubbliche in maniera molto poco produttiva. Sono voti, sono anche voti poi. Ah, certamente, ma guardi che queste non sono politiche che noi possiamo considerare estranee alla nostra tradizione. È vero. Noi le abbiamo seguite, le posso fare un esempio. Beh, io quando mi sono trovata al Ministero del Lavoro, noi abbiamo una struttura, chiamiamola di ricerca, nell'ambito del Ministero del Lavoro, che è l'ISPOL, che ha 630 in qualche modo, diciamo così, dipendenti, poi molti sono a tempo determinato. Bene, io posso solo dire una cosa, io non ho assunto nessuno in quella struttura, ma li sa tutti i miei predecessori quanti. Ma che struttura era? Che struttura era questa? È per la ricerca del mercato del lavoro. Per la ricerca del mercato del lavoro. Sì, allora uno dovrebbe dire che hai la migliore ricerca sul mercato del lavoro. No, così. Chiaramente sono... E questo, voglio dire, non è stato estraneo alla nostra tradizione. E quindi quando noi parliamo di riforme, parliamo di cambiamenti nei comportamenti. Nell'ambito della pubblica amministrazione si lavora, si è valutati, si è trasparenti, non si hanno diciamo così lavori dove uno per esempio si presenta quando capita e magari un altro ti copre, tutte queste cose che caratterizzavano molto del nostro sistema pubblico, ho usato il passato e quindi devo dire che almeno per quella parte di pubblica amministrazione che io ho visto non l'ho più visto, però abbiamo avuto tanti anni di questi comportamenti e la Grecia li ha avuti, la Germania, i paesi nordici non li hanno avuti. Chiamiamola, non so, maggiore serietà. Non lo so, alla fine il conto in qualche modo si deve pagare. Mi dica in conclusione, l'avrà sentita anche lei, lo ricorderà, quando qualche anno fa l'ex premier Monti diceva, guardava la Grecia come simbolo del successo dell'euro. Dobbiamo dire che ci siamo sbagliati alla luce di come sono andati i fatti? Guardi, io ero a Bruxelles qualche giorno fa e c'era anche un professore greco abbastanza conosciuto. E lui diceva una cosa non dissimile, qui l'idea è che la Grecia ha fatto in effetti in questi anni delle riforme, il popolo greco le ha fatte e le stava seguendo, il problema è che poi la politica è intervenuta, questo sì con un grado di populismo eccessivo forse, e con delle promesse che non era in grado di mantenere. Allora, quando si vendono illusioni in maniera facile e poi non si hanno le risorse per mantenerle quelle illusioni e in più si ha una maggioranza che va dall'estrema destra all'estrema sinistra, è difficile fare delle scelte vere. Questo problema Tsipras ce l'ha oggi, ce l'aveva. Io in maniera molto pacata non voglio intervenire sulle vicende politiche degli altri paesi, non mi compete, però vorrei chiedere quante riforme o quanto, diciamo, io prendo l'esempio di questa lotta all'evasione fiscale o la proposta per far pagare le tasse agli armatori. Sì. L'ha fatta il governo Tsipras? Non ancora. Ma sono sei mesi, noi nei primi sei mesi, io devo dire, va bene, forse è stato anche, io non ho mai creduto alla storia del complotto, però e mi ricordo, magari era una percezione molto più che una realtà, però mi ricordo la drammaticità di quei giorni e quando al primo Consiglio dei Ministri Mario Monti disse devi fare la riforma delle pensioni e io chiesi quanto tempo ho e lui mi rispose 15 giorni, massimo 20, questo non era perché noi dovevamo, era perché noi non ci saremmo trovati, come si sta trovando la Grecia, nella condizione di non avere la liquidità sufficiente per pagare. Funzionamento delle scuole, degli ospedali, della polizia. È chiaro che come dire, il conto poi alla fine arriva. Io la ringrazio, professoressa Elsa Fornero, per essere stata con noi. Ci fermiamo qui con 24 Mattino, ma domani alle 6.30 siamo puntuali.